Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, buon inizio di giornata e bentornato al professor Francesco Landi, direttore dell'unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione al Policlinico Universitario Gemelli, che inizia con noi la giornata. È venuto a prendere con noi un caffè. Professor Landi, torniamo alle buone abitudini, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Professore, le vacanze sono finite, si riparte. Quest'anno la ripresa è un po' particolare, diversa da tutte le altre. Siamo un po' sospesi, professor Landi. Sì, siamo un po' sospesi perché ovviamente abbiamo paura. Non ce lo nascondiamo, appunto, del Covid-19. Ormai sono mesi che apriamo tutti i telegiornali, i radiogiornali, i giornali con questa notizia, siamo sempre la sera pronti a capire quanti nuovi contagiati, quante nuove persone si ammalano, quindi diciamo abbiamo proprio la nostra attenzione completamente focalizzata su questo. Ovviamente è giusto, dobbiamo assolutamente mantenere questo livello di attenzione personale, poi richiameremo appunto i nostri radioascoltatori a quelle che sono le tre regole principali, però dobbiamo anche pensare che dobbiamo vivere e dobbiamo cercare di recuperare alcune buone abitudini che purtroppo il lockdown, che ormai abbiamo imparato anche questo termine, cioè questa chiusura imposta giustamente, che abbiamo osservato in maniera, noi italiani tra l'altro, in maniera molto corretta, certamente ci ha fatto un po' dimenticare le buone abitudini. È vero, professor Landi, ogni esperienza insegna, o almeno dovremmo trarre da ogni esperienza un insegnamento, e probabilmente il coronavirus ci invita ad investire, a tornare a investire in prevenzione e quindi a puntare sul nostro stile di vita. Esatto, noi dobbiamo ricominciare proprio a pensare al nostro stile di vita e alla prevenzione. Oggi siamo ovviamente, e ripeto, lo sottolineo, giustamente focalizzati sulla prevenzione del contagio e sulla prevenzione del Covid, però sinceramente io sono anche un pochino preoccupato di alcuni dati che stiamo analizzando, che stiamo iniziando anche a pubblicare. Banalmente, ed è facilmente proprio comprensibile per tutti, se noi, come stiamo osservando, prendiamo il numero di analisi del sangue, cioè di quante persone sono venute dall'esterno a farsi controllare per esempio il colesterolo nel maggio-giugno 2019, cioè quando non avevamo nessuna preoccupazione del Covid, e li confrontiamo con quante persone si sono venute a controllare qui in ospedale il colesterolo, la glicemia o i trigliceridi nel maggio-giugno 2020, cioè quando è finito il lockdown, è meno di un quarto, cioè significa che pochissime persone hanno ricominciato, per esempio, a controllare il proprio colesterolo, la propria glicemia, i propri trigliceridi. La cosa ancora più, ripeto, sono dati preliminari, ma che credo verranno confermati, la cosa ancora più preoccupante è che abbiamo un colesterolo più alto, dei trigliceridi più alti, una glicemia più alta. Significa che proprio quelli che sono i fattori base della nostra prevenzione, del nostro controllo, fattori di rischio cardiovascolare stiamo parlando, come colesterolo e glicemia, non solo non li abbiamo controllati, ma probabilmente li abbiamo un po' trascurati, tanto che oggi abbiamo valori probabilmente un po' più alterati. Ma questo è logico, durante il lockdown, durante questo periodo, noi abbiamo lo stile di vita, l'abbiamo un po' dimenticato, ci siamo mossi di meno, non abbiamo fatto esercizio fisico, abbiamo mangiato male. Professor Landi, ma quanto lo stile di vita può, mi passi il termine, proteggerci dal Covid? Alcuni studi hanno puntato, ad esempio, il dito sul sovrappeso. Che relazione c'è? In realtà non è l'obesità che ci espone al contagio in maniera, come fattore di rischio, e quindi in maniera maggiorativa. In realtà quello che noi anche abbiamo osservato, che molti studi hanno anche documentato in maniera scientifica, e devo dire che anche noi qui a Policlinico Gemelli, quando proprio abbiamo seguito i pazienti acuti, e personalmente ho seguito questi pazienti acuti, l'obesità era un fattore di rischio, è un fattore di rischio per una malattia un po' più grave, cioè non quindi che chi è sovrappeso ha più facilità di contagiarsi, però tra quelli che si contagiano, chi è sovrappeso purtroppo ha delle manifestazioni più gravi. Questo diciamo c'ha sia dei motivi biologici, insomma, proprio relativo allo stato di infiammazione maggiore che è presente nei pazienti sovrappesi e obesi, e anche poi di tipo meccanico. È ovvio che l'obesità è già un fattore di rischio per respirare male, per respirare peggio, per avere la dispnea, quindi è chiaro che nel momento in cui ho un problema polmonare da Covid, come per esempio la polmonite interstiziale, vado più facilmente in insufficienza respiratoria, e purtroppo l'obesità era proprio un rischio, è un rischio del ricorso alle terapie intensive, quindi all'ingresso in una terapia ad alta intensità di cura. Quindi, professor Landi, torniamo a dire parola d'ordine: prevenzione, stile di vita, puntiamo sullo stile di vita, rimaniamo attivi, torniamo attivi e guardiamo, scegliamo bene quello che portiamo in tavola. Sono queste cose semplici che tutti noi possiamo fare per in qualche modo renderci, no, più resistenti, posso dire, agli attacchi del virus? È possibile? Sicuramente. Noi sappiamo che lo stile di vita, e in particolare i due che sai bene rimarchiamo sempre quando ci sentiamo la mattina presto, ed è importante proprio ricordarcelo dalla mattina presto, è la corretta alimentazione e l'esercizio fisico. Ma professore, il problema è come rimanere attivi. Molte persone hanno ad esempio paura di tornare in palestra o di andare a correre, di prendersi magari un'infreddatura, sudato, poi la corrente d'aria, poi mi viene la tosse, una linea di febbre. Abbiamo qualche timore, professor Landi, che è in parte giustificato, insomma, non vogliamo giocare un po' con il fuoco, ecco. Da sempre l'attività fisica è un fattore positivo per la longevità, per il benessere, certo, per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Per 3 mesi abbiamo detto dovete stare inchiodati sul divano. Adesso alzarci da questo divano, ecco. Penso anche agli anziani, Nicoletta, pensiamo, sì. noi oggi siamo molto focalizzati, ma credetemi, chi ci ascolta, noi abbiamo tantissimi dati che non solo gli anziani, che purtroppo sono stati colpiti dall'infezione, e molti sappiamo quello che è successo in particolare nelle case di riposo, ma tutti gli anziani che sono stati bloccati a casa e che grazie a Dio non si sono infettati, non pensiamo che siano bene, sono persone che sono depresse, hanno perso memoria, hanno perso performance cognitiva, hanno perso performance fisica, hanno perso muscolo, sono diventati sarcopenici. La sindrome post-Covid non è solo di chi ha avuto il Covid, sono anche delle persone, in particolare le persone più fragili, sia da un punto di vista fisico che anche da un punto di vista psichico e neurologico, che oggi ancora soffrono di tutto ciò. Quindi, professor Landi, la ricetta? La ricetta è con i 3 canoni che sono imprescindibili quando si esce, e soprattutto si è potenzialmente a contatto con altre persone: la mascherina, l'igiene delle mani e il distanziamento. Nel momento in cui io mi distanzio, e quindi penso che sto in un parco, sono in un posto all'aria aperta, posso togliermi la mascherina, posso fare la mia passeggiata, posso fare la mia corsetta, posso ricominciare certamente a fare attività fisica. Noi abbiamo parlato spesso del nostro progetto Sprint, degli anziani che vengono qui a fare la ginnastica. Bene, noi per tutta da quando c'è stata la possibilità di riuscire da maggio siamo ripartiti, gli anziani sono ritornati con grande entusiasmo e abbiamo fatto tutto ciò nel giardino e nel parco del Gemelli, dove era più possibile e più facile distanziarsi e soprattutto stare all'aria aperta. Oggi nelle palestre, in tutte le palestre, anche noi che ritorneremo a farlo al chiuso, dovremo anche lì rispettare l'igiene, che poi è una regola che valrà per sempre al di là del Covid, è una regola che se vogliamo valeva anche prima. Se io vado in una palestra, gli attrezzi che ha usato un altro devono essere adeguatamente puliti, igienizzati, questo deve valere per sempre, ma doveva valere anche prima del Covid, e poi cercheremo di stare un pochino più a distanza, ma con cautela e nelle palestre che rispettano queste indicazioni, oggi, a tutt'oggi, possiamo andare. Professor Landi, ha un consiglio da dare ai genitori dei ragazzi che tra poco riprenderanno la scuola? Qui è molto difficile perché ovviamente sappiamo bene che c'è anche un risvolto, se vogliamo, anche politico molto importante. Io anche qui dobbiamo cercare ad oggi di tranquillizzare i genitori. I ragazzi devono essere, tra virgolette, responsabilizzati. Sappiamo che mantenendo questi accorgimenti che abbiamo detto, non certamente azzeriamo la possibilità di contagiarsi, certo, ma certamente la riduciamo tantissimo. La scuola è un po' come la prevenzione, lo stile di vita, è un cardine imprescindibile del nostro vivere. I ragazzi devono ritornare a scuola. Oggi probabilmente ritorniamo a scuola anche un po' con delle situazioni che ci intristiscono. Cosa c'è di più bello, noi di una certa età, di ricordarsi del nostro compagno di banco? Certo. Immaginare che oggi questi ragazzi non hanno il compagno di banco, che era quello che il primo giorno di scuola te lo sceglievi e facevi la corsa in classe per sceglierti il banco. È vero. Io sempre fila centrale, ultimo banco, quello dove il professore ti vede di meno, ma insomma al di là di questo, ecco, a 56 anni ho questi ricordi bellissimi. Ecco, pensare che i ragazzi un po' tutto questo non ce l'hanno, pensa ai ragazzi che hanno fatto la maturità, che l'ultimo anno, che è il più bello, non l'hanno vissuto a scuola. Ecco, dobbiamo assolutamente fare lo sforzo, anche direi mentale, anche noi genitori, di tranquillizzare in qualche modo i nostri ragazzi, di responsabilizzare i nostri ragazzi e di riprendere a scuola. Gli accorgimenti ci sono, certo. I nipoti amano i nonni e i nonni amano i nipoti, ecco, questa è forse un'accortezza che dovremmo cominciare a mettere sul campo. Quando tornano da scuola, se prima si abbracciavano e si sbaciucchiavano i nonni, oggi possono ritornare a pranzo dei nonni, che sono una risorsa straordinaria, mantenendo un po' di distanza. Professor Landi, grazie per questo buon caffè che abbiamo bevuto insieme, questa chiacchiera mattutina che ci dà lo sprint per iniziare la giornata. Buona giornata, professor Landi, a presto. Grazie a voi e buon caffè. Grazie, noi invece torniamo a sentirci subito dopo il GR delle 12. A presto.